Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento con la grande attualità internazionale. Con me ci sono Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione, Valera Bernardi in regia. I vostri messaggi per domande o critiche o suggerimenti 349-238-6666, su Twitter cercatemi, sono Giampaz, oppure Nessun Luogo 24, su Facebook la pagina del programma è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. E come avete sentito anche dall'anticipazione delle 13, partiamo dall'Egitto. Egitto, da dove arriva la notizia, in realtà non confermata ancora al 100% né dal ministro degli esteri egiziano né dal governo croato, dell'uccisione dell'ostaggio, il trentenne che lavorava per una compagnia di esplorazione petrolifera francese, rapito alcuni giorni fa a una ventina di chilometri a sud del Cairo. Una dinamica che appare un po' più chiara adesso: la macchina su cui viaggiava sarebbe stata fermata, l'autista egiziano lasciato andare e l'ostaggio appunto croato portato via. Poche ore fa Wilayat al-Sinai ha diffuso in rete una foto che mostra inequivocabilmente l'uccisione dell'ostaggio, ma per forza di cose le autorità adesso stanno verificando la veridicità di questa immagine. L'inizio della tragedia era proprio in quelle ore in cui al-Sisi andava a inaugurare il canale di Suez, l'ampliamento del canale di Suez, ve l'abbiamo raccontato praticamente in diretta, e questo è sicuramente un duro colpo all'immagine granitica di solidità e di sicurezza che al-Sisi ha tra le sue priorità, certamente. Ma chi è Wilayat al-Sinai? Che cosa vogliono? In quanti sono? Sentite il ritratto che ci ha fatto Matteo Colombo, giornalista e ricercatore per ISPI. In realtà i terroristi di Wilayat al-Sinai hanno radici più antiche, perché nella zona del nord del Sinai esisteva già il gruppo Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis è un gruppo che nasce anche in relazione al risentimento da parte di una parte della popolazione beduina nei confronti delle politiche del governo, una zona centrale per esempio per i traffici di droga e di esseri umani, quindi una zona difficilmente controllabile. Alcuni mesi fa questi terroristi hanno cercato di darsi un obiettivo più internazionale, quindi si sono affiliati ad ISIS prendendo il nome di Wilayat al-Sinai. Gli obiettivi sono in realtà due: da una parte c'è quello di destabilizzare il governo, quindi di porre una sfida nei confronti dell'apparato di sicurezza egiziano; dall'altro una proiezione più internazionale, come dicevo, nei confronti di Israele, della striscia di Gaza che si trova proprio a pochi chilometri da dove questo gruppo opera. Portare una sfida per ISIS nei confronti di Israele vuol dire anche acquisire una grande credibilità all'interno del mondo arabo e più in generale musulmano, rispetto a quello che viene visto come il nemico principale da una gran parte della popolazione. Si parla di circa 2.000-3.000 persone. In realtà bisogna considerare, come dicevo, che si tratta in parte anche di truppe tribali, perché sono forti le contaminazioni con le tribù presenti in Sinai. In questo momento è possibile anche che si trovino degli affiliati nell'Egitto, quindi nelle grandi città egiziane, in maniera forse più informale, e nel sud, dove sembra che questo gruppo stia cercando di espandersi in questi mesi. Quindi, di fronte a questa possibile espansione del terrorismo, come può cambiare la strategia del governo egiziano sulla sicurezza? Ancora Matteo Colombo. In realtà fino a questo momento le strategie non si sono rivelate ufficiali, perché si punta a una repressione, si punta a una operazione militare come c'è stata nei mesi scorsi, ma non si punta a un processo politico, che è forse quello che serve, quindi un processo politico inclusivo che possa dare una prospettiva appunto ai gruppi per esempio operanti in Sinai, e che non punti soltanto alla repressione di quella che è la galassia islamista più in generale. Mi riferisco soprattutto ai fratelli musulmani, che in inevitabilmente porta alcuni singoli ad una radicalizzazione e quindi ad avvicinarsi alle tesi di gruppi più estremisti o jihadisti, come nel caso di Beit al-Maqdis. Minaccia di Wilayat al-Sinai dopo il rapimento e l'uccisione, non confermata ancora al 100%, di Tomislav Salopek, trentenne croato che era stato rapito a 20 km a sud del Cairo. Un duro colpo questo per l'immagine di al-Sisi. Ci stiamo interrogando su quanto la generale situazione di sicurezza al Cairo e nel paese si possa deteriorare e quanto possa essere motivo di preoccupazione. Una delle ipotesi che si fanno è che al-Sisi stia pagando il pugno duro che ha esercitato non solo contro i fratelli musulmani, ricordiamo il colpo di Stato di 2 anni fa, ma più in generale contro tutti i gruppi estremisti. Sentite ancora Matteo Colombo. Sicuramente non aiuta, non è la strategia che a lungo termine può portare alla soluzione della questione sicurezza in Egitto. Più in generale manca proprio una visione che vada al di là di quella che è la repressione, quindi una visione che possa in qualche modo includere delle frange di quelle che sono i gruppi islamisti più centristi, che fanno riferimento ad alcune frange della Fratellanza Musulmana, e che possa forse anche dividere il gruppo in una parte più dialogante, come è stato in passato, perché la Fratellanza Musulmana ha giocato un grosso ruolo politico in Egitto, potrebbe pensare di ritornare ad occupare la scena, ma in questo momento la vedo molto molto difficile, perché il regime sta operando in maniera totalmente diversa. Questa era l'analisi di Matteo Colombo, esperto di Egitto, ricercatore all'Istituto per gli Studi sulla Politica Internazionale di Milano. Allora andiamo in diretta al Cairo, dove c'è Maurizio Massari, che è ambasciatore italiano in Egitto. Ambasciatore Massari, buongiorno e benvenuto in Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, salve, buongiorno. Allora ambasciatore, le chiederei innanzitutto un primo commento sulla situazione di sicurezza, dopo fra l'altro anche, lo ricordiamo, l'attacco al nostro consolato di qualche settimana fa e poi quest'altro sciagurato evento, il rapimento e molto probabilmente l'uccisione di Tomislav Salopek. Un suo commento sulla situazione della sicurezza. Sì, io direi che la situazione di sicurezza in Egitto rimane abbastanza complessa, direi erratica, nel senso che c'è senz'altro un trend verso l'escalation di queste minacce alla sicurezza, in particolare del terrorismo, anche adesso targato ISIS. E abbiamo visto in questo senso alcuni episodi drammatici, appunto quello che ha ricordato lei dell'attentato al nostro consolato l'11 luglio scorso, l'episodio del cittadino croato odierno. Insomma, quindi qui ci sono testimonianze di un'escalation della violenza terroristica. Ricordo anche l'attentato fortunatamente sventato, ma che si sta preparando a Karnak, Luxor, in giugno. Ci ho detto, preciso che insomma che si tratta di un'escalation che rende complessa, ancora più complessa, la situazione di sicurezza e erratica, in quanto sono episodi che non è che avvengono quotidianamente, sono episodi che avvengono con degli intervalli che sono molto spesso imprevedibili. Potrebbe non accadere nulla per i prossimi 2 mesi e poi esserci nuovamente un altro di questi episodi. Comunque io condivido l'analisi di Colombo, che si tratta di episodi che sono volti a in qualche modo destabilizzare e delegittimare l'attuale governo egiziano, le istituzioni egiziane, e quindi hanno anche una peculiarità molto egiziana, cioè non è ISIS come la conosciamo in Siria ed Iraq, sì, ma è un ISIS che ha un'agenda un po' diversa, più marcatamente egiziana. Ambasciatore Massari, voi avete preso misure di cautela diverse, più restrittive per voi, per il personale, e date suggerimenti agli italiani diversi? Assolutamente sì, ovviamente dopo l'attentato dell'11 luglio contro il consolato abbiamo qui, d'accordo con le autorità egiziane, rafforzato tutti i dispositivi di sicurezza intorno all'ambasciata, intorno all'istituto di cultura. Lo faremo anche intorno al consolato una volta che verrà ricostruito. E naturalmente mandiamo continue informative e warning a tutti i nostri connazionali in relazione appunto alla situazione di sicurezza, come si sviluppa giorno dopo giorno. Quindi abbiamo un raccordo costante con i nostri connazionali, sia i rappresentanti delle ditte italiane, che sono molte al Cairo, ma anche organizzazioni non governative, di tutta la comunità italiana in Egitto. Abbiamo per esempio anche mandato oggi stesso un'informativa di cautela, perché domani ricorre l'anniversario di Rabah, quando due anni fa, nel 14 agosto 2013, ci fu l'intervento appunto dell'esercito della polizia egiziana contro il forte dei fratelli musulmani, sì, che tenevano appunto a fare resistenza contro la rimozione del presidente Morsi. Quindi domani potrebbero esserci, chissà, speriamo di no, ulteriori episodi di violenza. Certo. In particolare aziende o imprenditori italiani o chi è attivo nel paese vi hanno chiesto ragguagli particolari, si sono fatti sentire, il che vi ha, come dire, restituito una certa allerta, una certa ansia, tensione o forse paura? No, ma guardi, con loro noi abbiamo un sistema di informativa regolare, costante, quindi uno scambio sia personale sia attraverso una rete di informatori anche nelle diverse località dell'Egitto. Tenga presente che anche poi le nostre ditte hanno delle regole di sicurezza poi autonome, interne, in qualche modo, che sono spesso anche abbastanza stringenti. E quindi che poi sono complementari rispetto alle indicazioni che diamo noi come governo. Si tratta, sì, di regole che poi, voglio dire, ruotano intorno a delle misure cautelative preventive, cioè si tratta di ridurre il numero dei nostri lavoratori espatriati presso cantieri e presso appunto le ditte, limitare, sì, la presenza delle famiglie, sì, evitare spostamenti in auto nel paese in zone particolarmente insicure o chiaramente per motivi lavorativi non essenziali, evitare la sosta nei luoghi affollati vicino alle stazioni di polizia, che sono oggetto di regolari attacchi da parte di queste frange islamiste radicali. Sì. No, perché è certo che, come dire, gli obiettivi militari siano tra quelli più sensibili, però ha destato scalpore, no, il fatto che sia stato preso per la prima volta un obiettivo civile. La volevo invece sollecitare, ambasciatore, ringraziandola, e poi la lascerò al suo lavoro. Matteo Colombo, ricercatore di ISPI e anche giornalista, faceva riferimento a quella mancata inclusione, no? E poi lei citava l'episodio di esattamente 2 anni fa, la mancata inclusione da parte del Sisi dei fratelli musulmani, ad esempio, certo non aiuta la pacificazione, anzi può innescare un'escalation di violenza. Lei da lì come la vede? Guarda, insomma, qui è una problematica estremamente complessa, proprio per come nasce l'attuale assetto politico, che nel 2013, che non nasce attraverso una normale alternanza, diciamo, di passaggio del testimone attraverso elezioni diplomatiche, non nasce in maniera, diciamo, consensuale, ma nasce attraverso lo scontro, appunto, si ricordavo io l'episodio di 2 anni fa. È evidente che questo discorso dell'inclusività si è presentato sin dall'inizio, quindi sin dall'inizio 2 anni fa, in maniera estremamente complesso e problematico. Da un lato sembrava inevitabile per il nuovo governo egiziano, quello appunto guidato dal presidente Sisi, insomma, come autorità suprema, contrastare in maniera radicale, quindi anche con la repressione, qualsiasi tentativo di tentativo violento dei fratelli musulmani e di altri settori islamisti di opporsi al passaggio di poteri allo Stato militare. Dall'altro è anche vero che quindi diciamo non c'erano queste condizioni iniziali per una normale inclusività. Questo atteggiamento da parte del governo egiziano, dello Stato militare, naturalmente ha probabilmente anche radicalizzato ulteriori frange islamiste, quindi ha portato un'escalation della violenza, che poi la cosa di cui stiamo parlando in questi giorni. Inclusività, anche io, come diceva prima Colombo, non la vedo una prospettiva immediata. Possiamo certamente dire però che il pugno di ferro, in qualche modo inevitabile, per come si sono svolte le cose 2 anni fa contro gli islamisti, e può essere stata una condizione necessaria, ma certamente non è sufficiente alla lunga per risolvere il problema della stabilità. È chiaro che occorrerà ad un certo punto, quando le condizioni saranno mature, ma questo lo potranno decidere soltanto unicamente gli egiziani. Bisognerà attivare un processo, diciamo, politico per cercare di includere in questo progetto nazionale che ha lanciato il Presidente Sisi un maggior numero possibile di componenti della società politica egiziana. Sì. Ci saranno le elezioni parlamentari quest'autunno, qui i fratelli musulmani, ma comunque a parte insomma, i salafiti di El Nur, i fratelli musulmani non parteciperanno perché sono nella lista delle organizzazioni terroristiche. Comunque anche queste elezioni parlamentari saranno almeno già una prima tappa verso un allargamento, no, del processo politico, se non proprio decisionale, almeno della partecipazione politica. Vedremo in futuro, però occorrerà avere pazienza e certamente pazienza da parte nostra, ma anche lungimiranza da parte delle autorità egiziane, perché poi alla fine questa escalation della violenza di cui stiamo parlando danneggia lo stesso progetto politico della certo. dirigenza egiziana, del presidente Sisi, che certo. Vuole rilanciare l'economia, vuole rilanciare gli investimenti, lo sviluppo. È evidente che condizioni di sicurezza così ancora poco consolidate, è molto più difficile fare un discorso economico anche di sviluppo e di investimenti per il lungo termine. Grazie. Allora, Maurizio Massari, ambasciatore italiano in Egitto, era con noi dal Cairo. Buona giornata e buon lavoro, ambasciatore. Grazie, arrivederci. Questa è la situazione in Egitto, queste le sfide davanti al Sisi. Certo, parlare di inclusione dopo un colpo di Stato è veramente, veramente difficile. Vedremo se avrà quella lungimiranza evocata dall'ambasciatore per tornare a rincludere anche nel processo politico le frange che lui stesso aveva defenestrato appunto 2 anni fa. E vedremo anche se domani sarà una giornata calda, ovviamente. Noi tutti speriamo di no. Allora, adesso cambiamo pagina, voltiamo pagina, andiamo a Baghdad. This is the aftermath of one of the largest attacks in Baghdad in a year. E questo è uno degli attentati più sanguinosi degli ultimi tempi a Baghdad, che in vero ne ha conosciuti parecchi e sempre periodicamente, molto spesso sotto il silenzio dei media, quasi assuefatti a questa serie di morti. 76 morti, un camion bomba esploso in un mercato appunto di Baghdad, i feriti sarebbero almeno 200. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo è lontano Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Allora, questo attentato viene pochi giorni dopo che il governo iracheno, dopo una serie di proteste che avvenivano ogni venerdì a Baghdad, stava cercando di risolvere il problema della corruzione. Aveva varato una nuova legge, aveva defenestrato un paio di personaggi che erano, come dire, in odore non buono. Insomma, sono due i fronti, per farla semplice, fotografare un aggiornamento della situazione irachena. Da un lato c'è ISIS, ovviamente il grande nemico, e dall'altro c'è un nemico un po' più strisciante, endemico, che è quello della corruzione dell'apparato governativo. Aiutaci a comprendere questi due fronti, quanto sono difficoltosi. Ma quello della corruzione mi sembra inesistente, perché la corruzione è il leitmotiv praticamente di quasi tutto il Medio Oriente, nel senso che o si cambiano governi, regimi e stati e allora forse si può affrontare il problema della corruzione. Il problema dell'Iraq è ben diverso. Il problema centrale dell'Iraq è stabilire se è ancora uno Stato unitario o no, e la risposta è più no che sì, perché il problema vero è che una parte del paese è occupato dallo Stato Islamico, l'altra parte, il Kurdistan, è in rotta di collisione totale con Baghdad sulla distribuzione delle risorse, dei proventi delle risorse petrolifere. Il Kurdistan di Massoud Barzani esporta 600.000 barili al giorno verso la Turchia e non ha nessuna intenzione di dividere la torta col governo centrale. Mi sembra evidente che in questa situazione il vero problema, più che la corruzione di questo paese, è che questo paese non c'è più. Sì. Ed è assai ancora più difficile immaginare, pensare come potrà essere fatta un'eventuale offensiva contro lo Stato Islamico per riprendere le città a nord di Mosul e a sud di Ramadi. Ecco, allora così hai già prevenuto la domanda che volevo farti, perché è vero che insomma i problemi interni ci sono, però il grande nemico è quello, è ISIS. Sei pessimista, lo hai già detto, insomma, su una eventuale offensiva da parte di Baghdad. Per il momento non vedi capacità militari e strategiche sufficienti per contrastare ISIS, allora? Ma dunque, dopo la disfatta che c'è stata l'anno scorso, ricordiamoci cosa accadde nel Kurdistan iracheno, a Mosul, in giugno, cioè praticamente l'esercito iracheno si è liquefatto davanti all'avanzata dell'ISIL, non soltanto ritirandosi da città importanti come Mosul, ma abbandonando milioni e milioni di dollari di materiale militare in mano all'ISIS, dalle armi ai mezzi militari e carri armati, l'autoblindo e via discorrendo. Da quel momento si è cercato un po' di ricostituire questo esercito, gli americani hanno mandato dei consiglieri militari, sì. Gli iraniani con le milizie sciite stanno cercando in qualche modo di ridare forza a queste truppe governative, ma i risultati, come abbiamo visto anche a Ramadi, non sono stati molto brillanti. E per di più la strategia per combattere l'ISIS mi sembra alquanto ancora da definire, perché se è vero che da una parte gli americani e gli occidentali continuano a fare bombardamenti, non si capisce in appoggio di chi li stiano facendo, soprattutto in Siria, perché il califfato si combatte su due fronti, uno quello iracheno e l'altro quello siriano, e su fronte siriano vediamo che per esempio gli alleati turchi fanno più la guerra ai curdi che non certamente ai jihadisti del califfato, certo. E che dovrebbero essere i curdi un po' la fanteria da utilizzare contro questi. Per di più stanno addestrando delle truppe, gli americani e i turchi insieme, con i soldi dei sauditi e dei catarini, che dovrebbero entrare dentro e cercare in qualche modo di contrastare l'ISIS. Ma finora hanno mandato dentro 60 persone e 30 sono stati fatti prigionieri. Sì. Beh, se dico, questi sono i risultati. Sì. Allora, grazie Alberto Negri, anche se con tinte fosche, grazie per il tuo aggiornamento. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro. Ricordo le coordinate se avete domande o volete porre commenti, critiche, questioni: 349-238-6666, gli sms Giampaz su Twitter oppure Nessun Luogo 24 oppure su Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Tra poco cambieremo pagina, vi racconterò un'altra storia, ma subito l'informazione finanziaria. Nessun luogo è lontano. Questa è la terza pagina di Nessun Luogo è Lontano, anzi la seconda, scusate, stavo andando un po' di fretta. Seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, adesso andiamo in Ucraina. We found seven pieces which we established that they were not a part of the airplane. E la voce che sentite è quella del capo delle operazioni di recupero, che racconta di aver trovato nel ritrovamento, nel luogo della strage dell'aereo MH17, l'aereo malese, sono stati trovati, notizia di un paio di giorni fa, sei pezzi che non appartengono all'aereo ma che plausibilmente potrebbero appartenere a un missile, forse di fabbricazione russa. Questo è un po' il grande mistero che da più di un anno aleggia su quell'incidente aereo: chi è stato, chi l'ha tirato giù, scambio di accuse incrociate da una parte e dall'altra. E su questo giallo, che ancora continua, che vediamo se nei prossimi giorni con le investigazioni avrà un suo svelarsi, andrei a solleticare Aldo Ferrari, il professor Aldo Ferrari, che è analista esperto di Russia, analista anche egli per l'ISPI. Professor Ferrari, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, grazie. Allora, intanto mi rendo conto che non vi è nulla di confermato, però si vocifera, sono rumor, insomma, che dicono che c'è possibilità che i frammenti del missile trovato nel luogo dell'incidente aereo potrebbero essere di fabbricazione russa. Quali speculazioni possiamo fare senza spingerci troppo con le speculazioni? Guardi, francamente io direi che sarebbe bene non fare speculazione, perché sentivo dalla sua presentazione un plausibilmente, un forse, non si può dedurre nulla da tutto questo. Tenga presente che la maggior parte, se non la totalità, delle armi usate nel conflitto da tutte le parti è di fabbricazione russa. Credo sarà veramente molto difficile stabilire chi abbia abbattuto l'aereo. Si può persino pensare, dal mio punto di vista, che il vero criminale non sia stato tanto chi da una parte dei separatisti o dalla parte degli ucraini l'abbia abbattuto, ma chi l'ha fatto volare in una zona di guerra, francamente. Perché purtroppo una definizione di ciò che è avvenuto sarà molto difficile da trovare, verrà velata da un muro di interesse politico, di propaganda politica. Sono molto perplesso che si possa arrivare a una soluzione, è passato ormai un anno, arrivare a una soluzione accettabile, credibile universalmente, a mio giudizio sarà molto difficile. E insomma, lei citava colpi di propaganda, la crisi ucraina è una di quelle, assieme alla crisi israelo-palestinese, assieme al tema immigrazione, che più scatena commenti quasi da tifo, ci si schiera molto spesso, no? Non so se d'accordo. È così, ma è una tragedia, perché le guerre sono delle tragedie. E purtroppo quando ci si aggiunge, come avviene ormai quasi sistematicamente, ma particolarmente nel caso dell'Ucraina, insieme agli altri che correttamente ha citato, ci si aggiunge la disinformazione premeditata, sistematica, che viene fatta purtroppo, a mio giudizio, non solo da una parte, ma da tutte le parti coinvolte, allora la tragedia bellica si innesca anche quella, come posso dire, intellettuale, quella mediatica, perché siamo molto vicini alla non comprensione di ciò che sta avvenendo realmente in questo conflitto. Sì, e naturalmente per cercare di capire cosa avviene bisogna essere lì, bisogna essere sul terreno, allora non potendolo fare noi di persona. Abbiamo raggiunto un ingegnere di Donetsk che in passato ha collaborato anche con alcuni giornalisti come Fixer, alcuni miei amici, alcuni miei colleghi lo conoscono, hanno lavorato con lui, e abbiamo chiesto a questa persona se ci può fare il punto sull'escalation di violenza degli ultimi giorni. Sono stati scambi di colpi di artiglieria anche piuttosto forti nella zona attorno, tra Donetsk e Mariupol, in un'escalation di violenza che pare aver infranto ormai questa tregua, che ormai è solo sulla carta, ma che come al solito non si capisce chi ha iniziato. Sentite che cosa racconta questa persona di Donetsk. For the last few weeks, conflict is... Nelle ultime due settimane la situazione degli scontri è peggiorata sempre di più, con combattimenti sempre più duri. Domenica scorsa c'è stato un grosso scontro a Orlovka, a nord-est di Donetsk, mentre pochi giorni fa si è combattuto anche nelle zone a sud. È davvero complicato stabilire chi abbia incominciato, perché entrambe le parti si accusano a vicenda. Nessuno può dire chi abbia iniziato, ma è chiaro che il conflitto peggiora di giorno in giorno. Ieri, inoltre, per la prima volta da quando sono stati siglati gli accordi di Minsk, sono stati utilizzati dei sistemi di lancio dei missili, il che è proibito proprio dall'accordo di Minsk. Da persona che vive qua, posso dire che il conflitto è sul punto di ricominciare di nuovo, ovunque. Going to start all over again. Allora, questo è un po' il racconto, il ritratto che, come dire, anche lì, chi è lì sul posto fatica a capire chi ha innescato questa nuova spirale. Vi faccio ancora sentire questa persona di Donetsk che ci racconta invece qual è la situazione per la popolazione civile. I civili che vivono nelle aree adiacenti alle zone di conflitto sono decisamente insoddisfatti dagli accordi di Minsk, perché la Repubblica Popolare di Donetsk, per via degli accordi, non può attaccare le forze ucraine. I reparti ucraini ogni tanto però danno il via a dei bombardamenti e lo stesso fanno le truppe della Repubblica Democratica di Donetsk. Non si muovono dalle loro posizioni, si bombardano solo, cosa che per esempio avviene durante la sera. I civili che vivono lungo la linea del fronte soffrono ancora di più per via di questa situazione, perché ci sono un sacco di incidenti causati dalla distruzione dei bombardamenti. Le persone semplicemente soffrono. La popolazione che vive lontano dal fronte è invece più tranquilla, perché può usufruire delle forme di assistenza statale. Continuano la loro vita e sono in linea di massima soddisfatte. Ecco, professor Ferrari, questa era un po' la fotografia che ci viene dalla regione di Donetsk, da una persona che ha lavorato anche con i giornalisti, è un civile, ma che negli ultimi tempi ha spesso appunto lavorato con colleghi e quindi ha una visione abbastanza ampia di quello che accade. Però la domanda è questa: è uno di quei casi, e ne abbiamo citati altri, di conflitti nel mondo dove la diplomazia si mostra davvero alle corde e non riesce a trovare il bandolo della matassa? Quali sono, come dire, le caratteristiche più significative di questa matassa? Perché è così difficile veramente arrivare a un accordo? Cosa c'è in gioco? Purtroppo in gioco ci sono gli equilibri europei e non solo europei. In questo angolino di Ucraina si sta combattendo un conflitto probabilmente, a mio giudizio, assolutamente non necessario tra la Russia e l'Occidente, dove per Occidente ovviamente ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Europa non compatta ma compattata, anche se molti paesi non sono affatto d'accordo con questa politica. E dietro c'è la NATO anche, e d'altra parte non siamo capaci, ed è questa la cosa più triste di questa situazione, ormai a distanza di più di un anno la diplomazia non riesce a al di là di accordi che sono comunque temporanei, provvisori, come quelli di Minsk 1 e 2, non riesce a definire tutto il quadro, che non può riguardare soltanto il conflitto, ma deve riguardare i rapporti tra l'Ucraina e la Russia, l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Il problema è che le parti non si trattano con sufficiente lungimiranza, con sufficiente equilibrio. A mio giudizio, soprattutto l'Unione Europea ha commesso degli errori gravissimi, fermi restante le responsabilità della Russia, ma se si prosegue in questa direzione sarà molto difficile che la situazione si stabilizzi e soprattutto si risolva il conflitto. Sarebbe necessario un atteggiamento proprio di trattativi a 360 gradi molto impegnative, perché tutti dovrebbero perdere qualcosa, e tutti, intendo proprio tutti, insomma, noi compresi. E se questo non si vuol fare, se si discute soltanto su piccoli aspetti, su come definire la tregua, purtroppo nulla si risolve. Il conflitto non è stabilizzato perché non c'è una visione politica chiara, generale, non solo su queste regioni di frontiere, ma su tutta la situazione globale dell'Ucraina, il rapporto alla Russia e all'Unione Europea. Sì. Professor Ferrari, che cosa ha sbagliato l'Unione Europea in passato? Quali errori ha commesso? Guardi, dal mio punto di vista, naturalmente è solo un'opinione personale, l'Unione Europea ha sbagliato clamorosamente e irrimediabilmente a questo punto, sin dall'inizio, quando è scoppiata la crisi in Ucraina, a pensare che soltanto gli ucraini occidentali avessero ragione. Cioè, noi abbiamo appoggiato una sola delle due parti in conflitto anziché porci come mediatori, abbiamo stabilito che chi gridava Europa, Europa avesse ragione, perché questo grido ci piaceva, ma in realtà avremmo dovuto agire come mediatori, come elementi di equilibrio e non come una delle due parti in causa. A questo punto noi non siamo più dei mediatori ma una parte del conflitto, e questo ci rende molto difficile risolvere la situazione. È stato proprio un peccato originale, mi chiede, della politica europea, che sembra ormai impossibile risolvere, sì, a meno che non si decida di ammettere questa responsabilità e non si cambi in maniera profonda la politica che abbiamo seguito sinora. Che però, insomma, anche dalle sue parole mi sembra abbastanza difficile. Io ringrazio Aldo Ferrari, professor Ferrari, analista per ISPI, esperto di Russia. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie anche a voi. Allora, questa era una parte della fotografia della crisi ucraina, ci torneremo perché è estremamente complessa, estremamente contaminata, come giustamente diceva il professor Ferrari, contaminata da tanta propaganda e perché gli interessi in gioco sono altissimi e forse anche da qualche vizio, come dire, di approccio da parte di alcune diplomazie. Tra poco vi porto in Repubblica Centrafricana, un paese raccontato pochissimo, un paese anzi direi dimenticato, se non fosse che una crisi ancora in corso lo ha gettato in ginocchio. Prima però c'è il tempo per farvi sentire una voce. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ila amir il mu'minin al mulla Akhtar Muhammad Mansur hafidhahullah. E quella che state sentendo è la voce di al-Zawahiri, che avete sentito appena nominato Mohammed Akhtar Mansur, che è il nuovo leader dei gruppi dei talebani legati al Mullah Omar. Vi ricordate, nelle scorse puntate in Sul Luogo e Lontano vi abbiamo raccontato la sfida in seno ai talebani per la nuova leadership dopo l'uscita della notizia della morte del Mullah Omar. Ebbene, in questo video che è stato rilasciato in rete poche ore fa, noi l'abbiamo scovato proprio da pochissimo, appunto appoggia endorsement aperto a appunto a Mansur, che era stato preferito, lo ricorderete, come nuovo leader dei talebani al figlio dell'ex leader, quindi al figlio del Mullah Omar. E questa è una notizia non da poco, perché certamente darà un impatto, darà un impulso, non so francamente in quale direzione. Adesso naturalmente ci lavoreremo e nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano ve ne daremo conto. Darà certamente un impulso, darà un qualche effetto sui colloqui di pace che vede i talebani e il governo afghano appunto a cercare di risolvere questa lunghissima diatriba. Allora adesso piccola pausa, andiamo sulle strade italiane a sentire come va il traffico e poi vi porto in Repubblica Centrafricana. Nessun luogo è lontano. (349) 238 6666 per i vostri sms, Twitter Nessun Luogo 24, oppure Giampaz, c'è qualcuno che punta il dito contro Alberto Negri e dice giornalisti faziosi, è per questo che il conflitto arabo-israeliano suscita un tifo da stadi, perché l'informazione è in mano a giornalisti come questi. Ma in realtà, guarda, a parte che insomma su Alberto Negri commenti come questi glieli rimanderei al mittente, ma io dicevo che c'è un tifo da stadio perché mi capita molto spesso di incrociare commenti con persone che incontro, con amici, con colleghi, e ci si schiera su alcune grandi questioni internazionali anche senza conoscere le cose, anche senza essere mai andati a Gaza, senza essere mai aver passato un giorno a Gerusalemme, senza aver mai lavorato a Donetsk. Leggendo un paio di giornali a volte ho incontrato persone che si facevano delle opinioni così granitiche e così solide che io francamente li invidiavo, perché io che ogni tanto vado sul terreno, francamente opinioni così così costruite, così solide e inattaccabili, francamente non riesco a farmele stando lì. Quindi avete massima invidia da parte mia, che non so quali canali, quali mezzi di informazione possiate attuare per avere queste certezze. Allora, polemiche a parte, andiamo in Repubblica Centrafricana, perché la notizia di cronaca è le dimissioni proposte, chieste e poi accettate del comandante dei Caschi Blu, il senegalese Babacar Gaye, 64 anni, su richiesta diretta del segretario generale Ban Ki-moon. Perché? Perché vi sono state parecchie accuse in passato e parecchie inchieste su azioni di violenza e di stupri da parte di alcuni caschi blu durante le operazioni di peacekeeping appunto in Repubblica Centrafricana. Quindi caschi blu nella bufera, si è dimesso il comandante, il capo delle delle operazioni. Adesso vedremo da chi verrà rimpiazzato. E in realtà quest'ultimo episodio di cronaca si somma a un episodio di violenza qualche giorno fa, quando un casco blu ruandese aveva aperto il fuoco contro dei colleghi e poi si era sparato. E, insomma, caschi blu nell'occhio del ciclone, ma non è di questo che vorrei parlarvi della situazione in Repubblica Centrafricana, che è una di quelle grandi crisi dimenticate. Noi l'anno scorso, nella vecchia edizione di Nessun Luogo Lontano, avevamo già parlato con Ombretta Pasotti, che è capo missione di emergency appunto in Repubblica Centrafricana, lavora a Bangui. Ombretta Pasotti, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, dobbiamo ricordare agli ascoltatori che per alcuni collegamenti vi è un ritardo leggerissimo di qualche decimo di secondo in più, è il caso con la Repubblica Centrafricana. Allora, Ombretta Pasotti, al di là di questa situazione, come dire, più strettamente di cronaca, delle polemiche e di questi deplorevoli comportamenti da parte dei caschi blu, la situazione nella capitale di Bangui, una fotografia, poi ascoltiamo la scheda. Sì, sostanzialmente, anche se i report ormai a livello nazionale riportano una certa calma sul paese, quello che noi sentiamo e che vediamo tutti i giorni è che c'è grande instabilità, imprevedibilità dei fatti, e quindi è molto difficile lavorare in un contesto come questo, perché non si sa cosa accade da un momento all'altro. Quindi la giornata potrebbe essere serena, così come avere degli avvenimenti come quelli accaduti un paio di settimane fa, dove ci sono stati dei grandi scontri a PK5 in un quartiere musulmano, si sono riaccese le tensioni e noi abbiamo ricevuto altri pazienti, altri bambini feriti. Quindi è veramente molto instabile. Oltre a questo, le patologie che noi vediamo soprattutto sono sempre legate, le cause sono ancora dettate dalla grande povertà che si sviluppa continuamente con il conflitto, le condizioni di igienità e di igiene scarse, la grande malnutrizione, la perdita dei nuclei familiari, perché in ogni famiglia almeno si perdono uno o due componenti, quindi i bambini in particolare che noi seguiamo spesso sono senza famiglie, sono ragazzi di strada, quindi grandi problematiche legate al conflitto o al post-conflitto, che comunque non si risolve ancora. Ecco, Ombretta Pasotti, un conflitto ancora non risolto. Spieghiamo che cosa è accaduto in Repubblica Centrafricana. La storia della Repubblica Centroafricana è caratterizzata da un'instabilità che dura dal 1960, data della sua indipendenza dalla Francia. Il continuo susseguirsi di colpi di Stato e di regimi militari l'hanno relegata nel numero dei paesi meno sviluppati al mondo, nonostante un territorio ricco di acqua e di materie prime. Nel 1997 la Francia finanzia l'intervento di una forza di pace formata dai paesi africani di lingua francofona. Il paese si reca ai seggi nel 1999, quando viene eletto come presidente Patassé, esautorato poi da un colpo di Stato nel 2003. Lo stesso destino colpisce nel marzo del 2013 François Bozizé, sotto la cui presidenza il paese aveva conosciuto un periodo di relativa tranquillità. A estrometterlo, l'alleanza dei gruppi ribelli denominata Seleka, che riesce a prendere il controllo della capitale Bangui, dando vita a un tormentato governo di transizione. Il paese sprofonda così in un vortice di violenza di matrice etnica e religiosa, dove gli scontri tra cristiani e musulmani nascondono quelli di natura economica. Secondo l'Alto Commissariato per i Rifugiati, su 5 milioni di abitanti sono ben 900.000 quelli che hanno abbandonato le proprie abitazioni. 190.000 hanno cercato rifugio nei paesi confinanti. Più di metà della popolazione necessita di aiuti umanitari, ma la presenza dei gruppi armati non consente agli organi internazionali di operare in modo efficace. Amnesty International ha di recente accusato di violenze e abusi sessuali il responsabile della missione di pace dell'ONU, il senegalese Babacar Gaye. Nella giornata di ieri, Gaye ha rassegnato le proprie dimissioni. Allora, questa è la brevissima storia della Repubblica Centrafricana, una storia segnata da guerre e violenze. Ahimè, l'ultimo conflitto, avete sentito, ha causato quasi un quinto della popolazione del paese sfollati interni, e quasi 200.000 che hanno cercato rifugio nei paesi vicini. In queste condizioni si trova a lavorare Emergency. Siamo con Ombretta Pasotti, che è capo della missione in Repubblica Centrafricana. Gestite voi, Ombretta, un ospedale nella capitale Bangui. Ombretta Pasotti ci ha ci ha spiegato le patologie principali che curate e il tipo di pazienti che andate appunto a curare. La vita nella capitale, quanta insicurezza c'è? C'è un coprifuoco? Come funziona la vostra giornata? Sì, la vita si sviluppa per il nazionale dalle 6 di mattina fino alle 6 di sera, dopodiché anche se non c'è un vero coprifuoco dettato dal governo, però dalle 6 in poi, quando inizia il tramonto, che poi si fa scuro, le persone vogliono essere a casa perché c'è grandissima instabilità, troppi gruppi armati, si parla ancora di 10 gruppi armati sul paese, delinquenza, banditismo, anche sulla capitale. Per noi grosse difficoltà comunque nella gestione delle strutture. Abbiamo 2 ospedali, un nostro ospedale pediatrico che cura patologie mediche, quindi malaria in particolare, e dal 2013 col colpo di Stato abbiamo avviato un supporto all'ospedale pediatrico nazionale per la chirurgia di guerra e della povertà. Gestire le strutture sanitarie in questo contesto è molto difficile perché è un paese isolato al centro dell'Africa, non è facile avere approvvigionamento di materiali. Spesso quando, tipo la scorsa settimana, le zone, i quartieri in cui vengono interessati, che sono soprattutto le aree commerciali del paese, vengono bloccate, vuol dire che si blocca tutta l'attività attorno. È veramente un paese molto povero dove pochissime sono le risorse, e quando vengono meno queste poche risorse si sente notevolmente sulle attività che si cercano di gestire. Certo. Oltre al fatto che il nostro staff, che è quasi tutto nazionale, deve trovare il modo di raggiungere l'ospedale per lavorare, e normalmente quando non riescono a raggiungere l'ospedale perché ci sono insicurezze attorno, arrivano più pazienti, perché ovviamente con l'instabilità poi ci sono più feriti. Certo. Quindi la gestione è veramente molto difficile, molto difficile. Certo. Ombretta Pasotti, hai modo di viaggiare al di fuori di Bangui e ogni tanto buttare l'occhio a quello che accade nelle zone rurali? Perché Bangui è poi la capitale, quindi, come dire, è un caso a sé, anche in termini di sicurezza, sì. Immagino, no? Cioè, fuori dalla capitale è tutta un'altra storia. Seguiamo dei dispensari che sono al di là delle barriere della capitale, e con grossa difficoltà ci arriviamo perché comunque è ancora, c'è molta anarchia, non appena fuori dalle barriere c'è grande anarchia, e quindi controllata dagli ex antibalaca, insomma dei diversi gruppi armati. Non arriviamo, non raggiungiamo le città più instabili, però diciamo, ci arrivano i pazienti attraverso altre organizzazioni internazionali, e normalmente seguiamo le storie di queste famiglie, dei bambini, e sono drammatiche. Certo. Hanno sempre situazioni in cui non riescono a raggiungere gli ospedali, se mai ci sono gli ospedali, quindi arrivano in condizioni disastrose da noi, hanno spesso degli abusi da parte della popolazione, da parte dei gruppi armati, hanno perso la famiglia, quindi spesso vengono accompagnati dal vicino di casa, piuttosto che... Sono situazioni veramente difficili. Malnutrizione di base sempre accompagnati, quindi è veramente un contesto difficilissimo, credo, per lavorare per tutte le organizzazioni internazionali che ci lavorano, per mantenere una certa stabilità e per la perdita di controllo che l'attuale governo, il governo di transizione, ha sul paese. Certo. Non esiste controllo, ecco. Certo, certo. Vabbè, qui la debolezza del governo è endemica e storica, insomma, in Repubblica Centrafricana, ai noi. Ombretta Pasotti, non ti chiedo un commento in merito alla questione dei caschi blu, assolutamente, lungi da me, però hai notato una maggiore sfiducia da parte della popolazione rispetto all'intervento terzo, cioè a chi viene da fuori, dato questi scandali, date queste, insomma, queste cose in cui sono stati coinvolti? Voi avete avuto, come dire, un polso differente? C'è meno fiducia, c'è più sospetto verso chi arriva da fuori per aiutare? Voi lo vivete su di voi? Sì, per il fatto che se si parla di peacekeeper si pensa ad un paese o ad una la capitale protetta, quindi dovrebbero cambiare le situazioni. Questo cambiamento non l'abbiamo sentito. Io sono qui dal 2013, sì. Lo staff, la gestione dello staff ce l'ho dal 2012, quindi non ho sentito grandi cambiamenti organizzativi, cioè la previsione poteva essere si allungano le turnistiche, si allungano, invece nulla è cambiato. La paura dello staff è la stessa, probabilmente non si riesce ad arrivare in tutte le zone instabili, certo, sulla capitale. Certo. Grazie Ombretta, purtroppo il tempo è tiranno, ormai lo sai, qua in radio il tempo è tirannico. Ti ringrazio Ombretta Pasotti, capo missione di Emergency Repubblica Centrafricana, era con noi in diretta da Bangui. Buona giornata e buon lavoro Ombretta. Grazie, buonasera. Allora, siamo quasi in chiusura, devo rispondere a un sms ancora riferito all'Egitto che diceva: avete parlato dell'esclusione dei fratelli musulmani come di un abuso della politica di Al-Sisi, ma vi ricordate chi sono? Sono estremisti che vorrebbero la Sharia in Egitto. Al di là di chi sono, dobbiamo ricordare che vi è stato un colpo di Stato che ha defenestrato un presidente legittimamente eletto. Questo è assolutamente fuori di discussione. Poi c'è chi dice che i giornalisti del Sole 24 Ore sono filo-palestinesi e contro Israele. Io non sono un giornalista del Sole 24 Ore, sono un freelance che ho la possibilità una volta l'anno di fare una trasmissione, cerco di non prendere parte perché una parte non ce l'ho e rispondo di quello che faccio e di quello che dico. Titoli di coda. Con i quali ringrazio Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione e Valeria Bernardi che è stata regia. L'appuntamento è domani ore 16 quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.